piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Dormire con il proprio amico a quattro zampe è confortante. La sua presenza e il suo respiro agiscono come una ninna nanna. Quindi può aiutare a rilassarsi e a contrastare l'insonnia. Inoltre, dormire con il cane è ideale in inverno per i freddolosi perché emana tanto calore. Apporta amore e tenerezza, aiuta a contrastare la depressione e ci fa sentire sicuri. Anche il cane ne trarrà beneficio. Più tempo passi con lui e più sarà felice. Quindi non esitare e lascialo dormire nel tuo letto. Scendi da questo cazzo di letto. Se no va a finire male, eh? Va a finire male qua, eh? Scendi da questo cazzo di letto. Scendi! Aia, Ugo! Vado a fare la pipì, quando torno, se ti trovo ancora qua, sono ammazzato. Ok? Mi capita no? Due punti di vista, contrasto. La realtà, il signore non tollera che il cane sia nel letto e si frapponga fra lui e la sua fidanzata. E il primo annuncio, in realtà, dice quanto sia bello dormire con il proprio amico a quattro zampe. Ora, qua c'è un'ambiguità messa così estrapolata, fa venire in mente l'amico lì a quattro zampe. Poi si parla di amico di stirpe canina, non so quale termine usare, sì, perché sembra normale. Io feci tempo fa una trasmissione su quanto è bello i nostri amici pelosi a quattro zampe, e anche qui posso scivolare nell'ambiguità, però si parla di cani, si parla di animali in generale. Poi se uno c'ha un criceto, dorme col criceto, c'è un serpente boa, dorme col serpente boa, c'è una nidata di pulcini, dorme con la nidata di pulcini, c'ha un secchio di piattole, dorme con un secchio di piattole. Però è dato di fatto che una clinica importantissima dell'Arizona, un campus che studia appunto i disturbi del sonno, se ne è uscita con questa sorta di abbozzo di studio. Tutti ci hanno sempre uno studio, come ieri le signore che si mangiano la placenta. Ma c'è qualcosa di scientificamente provato? Ci sono degli studi in corso. Ecco, io questa mattina con Fabrizio Intonti faccio uno studio in corso che prendere il mouse e sbatterlo fa bene alla depressione. È uno studio in corso, non è inoppugnabile, non funziona così. Lo studio funziona quando è verificato dalla comunità scientifica, quando è pubblicato, ma in questo caso è uno studio in corso. Fa tanto bene dormire con gli animali. Hanno messo 40 persone a letto con cani e roba varia e sembra che dormivano meglio, ammorbati dalla puzza del cane, non so perché, comunque dormivano meglio. Ora, siccome negli Stati Uniti ci sono 40 milioni di famiglie che hanno comunque un animale domestico, hanno pensato bene, usiamo questa maniera per dire alle persone che abbiamo trovato una nuova maniera per farle star bene, e quindi tutti a letto con i cani. Voi come la pensate? Io ho qualche dubbio, stamattina esprimo il mio dubbio. Può capitare, se ci si trova nella tundra desolata, con tempeste di neve, con i lupi che ti ululano intorno, c'è la fiaccola per tenere lontani, che magari c'è due o tre cani, te li tieni vicino, stai al calduccio e forse puoi chiudere gli occhi più tranquillamente. Ma che normalmente mettersi un cane dentro il letto, lì con il lenzuolo rimboccato, con le zampette pronte, con la cuffia in testa, faccia dormire meglio, ho qualche dubbio. Voi come la pensate? Avete animali e li tenete a letto? Avete superato questo tabù di portare l'animale a letto? Ormai ci si fa tutto l'animale, si porta anche a letto, ma no, ma sta sopra le coperte, ma no, ma se magari è freddo, poverino, vede anche sotto, ci stringiamo vicini. Mamma mia, mi vengono soltanto i brividi, ma magari mi sbaglio. 800 24 00 24, lo portate il cane a letto? Aia! Aia! Ma poi si spinge con le zampe contro il muro. Aia! Questo è quello che fa il caldo ai vostri cani. Aia! Si credono delle persone e ti vogliono sbattere fuori dal letto. Bruno! No! No ai maltrattamenti sugli umani. Il letto è anche degli umani, non è solo dei vostri cani, ricordatevelo. Parola di Bruno. Bruno cerca di alzare un baluardo di saggezza nei confronti di questo atteggiamento che potrebbe essere discriminatorio se espresso in questa maniera. Perché impedire ad esseri senzienti di dividere il nostro letto? Hai dei pregiudizi? Non sei contro la possibilità di espandere la propria affettività, il proprio desiderio di tenerezze, di coccoli con tutti gli esseri senzienti? Certo, sì. Vuoi portarti un cammello a letto? Portatelo a letto. Però voglio capire se veramente fa bene, perché questa Mayo Clinic, questa clinica di medicina del sonno in Arizona dice che un team di studiosi con adesso 150 partecipanti a seconda della fonte, la messa a letto dei cani sembra stiano tanto meglio. Giannico, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, telefono da Sesto Fiorentino. Che fate alle vostre parti, portate i cani a letto? Ma non lo so, qui c'è un monte di cani, ce l'hanno tutti i cani ormai. A me il cane non mi interessa, però ho trovato una gatta su al campo, c'è un'oliveta, e nulla, è particolarmente carina sta gatta. E ci stai facendo un pensierino, diciamo la verità, dai. Ci sto facendo un pensierino. Vabbè, si può dire tutto, diciamo anche questo. Si fa coccolare, tutto, però è ben educata, però è anche randagia, sale sugli alberi, caccia gli animali, è una bellezza. Ecco, la roba, quella cosa selvatica che in fondo ti piace ancora di più, si è persa. C'è questo odorino di selvatico, insomma. Non la lavi nemmeno, lavarla sarebbe peccato. Non è mia la gatta. Si autogestisce, e gli ho lasciato la baracca aperta, sicché dorme, gli ho lasciato un piumino vecchio, dorme lì. Una sera, con queste piogge c'è ora... Ti ha preso lo sfizio. Ho detto, c'è anche il lupo lassù, no, mi ha preso la paura, ho detto, ma questo se la mangia il lupo. Che niente, l'ho buttata a macchina, proprio così libera, senza... L'ha buttata in macchina, l'hai rapita praticamente. L'ho rapita un attimino, ho fatto una fuitina da fidanzati per una notte. Con la gatta. L'ho buttata a casa. Sta attento che chi sta sentendo già prende appunti, fra un po' ti denunceranno per tentato stupro di gatta. Vabbè, dai, lo sputteranno in tutte le maniere possibili. Cioè, questa però diciamo è la ciliegina sulla torta. Certo. Tu pensi alle tue amiche che sento, allora, guarda, è finito il portale. Amici mi ascoltano. Allora, ho fatto anche questa cazzata, l'ho portata a casa e io... Subito la prima cosa, si dorme insieme. Sì, vabbè, gli hai offerto qualcosa da bere, non è così adesso. Sì, da bere, da mangiare. Un po' di musica, un po' di ambiente. I ragazzi più che altro studiano il territorio, non è che si buttano subito sulla ciotola, non sono cani. Quindi ti ha pisciato sui muri subito? Non ha fatto nessun bisognino, assolutamente, è stata educatissima. E quello che mi premeva dire è come gli piace dormire con gli uomini. Cioè è una cosa pazzesca, con gli uomini, con gli uomini. Con te, mica con tutti gli uomini, sarà mica così. Non lo so, ha io scelto sono anche te. Geloso perché non è solamente mia, è anche il campo vicino, la coccola, sì che c'è un posto di... Quindi ve la dividete te e il tuo vicino. Senti, ma stai in un posto un po' isolato dal mondo, vivete... No, io sto in centro storico. Però fai una vita solitaria, non so, c'hai amici, frequenti persone, hai bisogno d'aiuto, non lo so, dimmelo, sono qua, ti posso dare dei consigli. In questo momento, sono deluso dall'essere umano femminile in generale, sicché mi sto buttando sugli animali, sì. Quindi questo è un messaggio nella bottiglia che mandi la tua ex fidanzata, dice guarda come sono ridotto a portarmi la gatta. Ex fidanzata, se mi ascolti sappi che io... sono arrivata a questo punto che... non ti lascio manco sospettare che punto sarà arrivata lei mentre ti ascolto. La gatta a lei. Buon per lei. Comunque guarda, ho le zampine sempre attaccate a me, se mi scostavo un attimino. Ma le zampine ci sono le unghie, insomma, fa male. Cerca il contatto, no? Quando vuole le unghie le toglie, guarda, è una Quindi, bellezza. Quindi in realtà ci può essere un principio di saggezza nel quello che dice l'Università dell'Arizona, che tu dormi meglio in fondo con sta gatta vicino. Allora, io ho dormito di merda sempre. Tra la pizza funghi che avevo mangiato la sera Beh, prima. Ma quello non c'entra col gatto. E la preoccupazione che lei stesse bene, ma lei ha dormito benissimo e la mattina ha fatto anche il sognettino con i gorgogli. Bellissimo. Cioè, sapere, quindi... t'ha vomitato la palla di pelo sul cuscino? Zero, non ha fatto Vabbè, niente. Vabbè, in bocca al lupo. È l'importante... una bellissima esperienza, la consiglio a tutti. Arrivederci. Ciao. Va bene, c'era un'altra telefonata caduta, un'altra signora la stiamo recuperando, ci stiamo decisamente virando verso il sonno con il gatto, ma ripeto, l'Università dell'Arizona alludeva a cani, però se esiste una maniera di passaggio, di transizione, per cui dormire con il gatto ha in fondo qualcosa che già prepara al placido sonno ristoratore con il cane, siamo qui per ascoltare. Wanda, buongiorno. Nicoletta, buongiorno. Sì, Nicoletta, no, Nicoletta è nella diretta Facebook in questo momento, deve andare su Facebook, io sono Nicoletti. Nicoletti. Comunque, guarda, no, volevo solo dirle quello, lei mi ha visto, diciamo, di persona, no, non immagino, perché altrimenti non si esprimerebbe in questa maniera. Non ho visto lei di persona. Ma ho visto un animale, ho fotografato, che dormire con un bambino... Ha mai assistito a una scena di questo genere? Sì, se lo vedo prendo un animale e lo tolgo dalla culla, certo, di come mai sei entrato nella culla del bambino, certo. No, questo non c'entra niente. Mm. Quando anche un bambino di 5-6 anni, a parte che ci sono delle terapie, no? Sì, terapie. Con gli animali, diciamo che poi si può eccedere andando a dormire, ma non implica assolutamente, diciamo, il fattore rapporto animale essere vivente. Enunci il suo pensiero, però Wanda, non mi faccia domande, lei deve dare. Lei cosa dice? Se ho visto il bambino, boh, sì, ci sono delle, sì, Facebook, sì, è pieno di teneroni cuccioloni che stanno con bambinoni. E dovrebbe anche lei assistere, guardi. E quando ho assistito, che succede? Mi cambia lei, la vita. Verso l'umanità, diciamo, non ispira simpatia, perché la vede tutto in negativo. Ma che so che ne sa lei, scusi, no, ma... Però lei è un elemento che, sì, no, diciamo, ma... che starle accanto è fastidioso. Mi scusi se faccio, certo, anche se proseguo. Se vuole, faccia, diciamo, la sua diagnosi. Se questo la fa star bene, va, no, benissimo. A me non fa star bene assolutamente, anche perché, diciamo, se l'umanità si, diciamo, è allegro, è contento, quindi mi farebbe star meglio, le dico la verità. Io sono allegrissimo. Quindi se invece è un elemento... un essere umano lo vede travagliato, ecco, la vedo molto travagliata, per l'amor del cielo. Se permette, mi do una grattatina, signora. Devo dire, questa è una mattinata bellissima per me, oggi mi va tutto bene, sono sereno. Però se mi vede travagliato, siamo, sì, esseri la vedo, umani. La vedo molto travagliata. Siamo nati in questa valle di lacrime. Sono molto vicino, perché, diciamo, la sua vita non deve essere una cosa... Ma la mia vita, diciamo, è bellissima, signora, io non c'ho nulla a lamentare. Per l'amor del cielo, però, diciamo, l'impressione che lei dà, almeno a me, a lei, io non le dico poi se altri... guardi, diciamo, davanti a me c'ho il professor Chiappini in tondi, stanno facendo le risate alla matti. Comunque lei le sembra persona travagliata, e questo, sì, dovrebbe prendermi un cane e mettermelo nel letto. Quello che lei riesce a comunicare, sì, quello che lei riesce a comunicare, poi se uno avesse il piacere di starle vicino, potrebbe risultare la persona più godiosa del mondo. Più vogliosa però del mondo. Quello che a noi, almeno a me, quello che arriva a me, nelle sue trasmissioni, che le seguo, le dico la verità. Ma arrivi al punto, signora, arrivi al punto. Però. No, siccome lei stava criticando, o almeno stava... Ma io faccio domande. Se faccio le posso domande. Dire peggio, era disgustato. Beh, cioè, dormire con cane mi fa un po' senso. Sì, mi fa un po' senso, onestamente. Il cane puzza, ecco, c'ha quell'odore di fiatella, si lecca le palle, si lecca il sedere, mangia la cacca, sì, per terra. Non è che sia proprio il massimo averlo nel letto, però no, ognuno però, fa le sue scelte. Diciamo che normalmente se una persona lo pulisce, perché quando torna a casa... E meglio fa il bidet al cane e portarmelo a letto, scusi, ma trovo persone che se sono fatte già da loro, anche più piacevoli, se proprio voglio una compagnia. Capito. Però perché mette in discussione e ne parla con disgusto? Sì, ma posso, con ma disgusto. Avrò il diritto di esprimere il mio personale, sì, disgusto? Per l'amor, poi ognuno fa quel che vuole, mica dico, sì, sia proibito. Sì, la trasmissione sua... Ma sì, non è la trasmissione mia, signora, è un principio... Io mica dico non lo fate. E lei dico, esprima tutto il suo giudizio. Vuole obbligarlo. Che, mi scusi, ma nel 90%, diciamo, di quello che io assisto nelle sue trasmissioni, sì, lei ha un discorso... Io vorrei sapere, ecco, cosa le fa piacere, cosa... diciamo attraverso la radio, perché a me fa molto piacere quello che faccio adesso, giorni. Mi piace molto il mio lavoro, faccio a 35 anni, mi soddisfa, mi fa piacere che almeno una cosa, ma non una, ma gliene posso elencare tante, non è una, ecco, allora mi fa allora, piacere, guardi, uscire, mi fa piacere, ascolti, stare insieme a persone simpatiche, mi fa piacere, ascolti, non le voglio dare io suggerimenti, per l'amor del no, cielo, no, me li dia, come sono qui per ascoltare, però ecco, attraverso la comunicazione, diciamo, sì, radiofonica, sì, non dà questa soddisfazione, ecco, non a lei, alla signora. Io le dico la mia impressione. Ma coi cani che c'entra questo? Ma che c'entra con questo? Scusi, il tema oggi sono dormire con i cani. No, io l'ho detto, già l'ho affrontato, il problema del cane, già gliel'ho detto. Ma quindi io, siccome ho disgusto di dormire col cane, sono una persona travagliata. Vabbè, il suo punto no, di vista. No, vabbè, no, signora, no, basta, io non sono l'argomento oggi. Vabbè, lei ha espresso il suo parere. Federico, buongiorno. No, non è che la voglio tranciare, sennò parliamo d'ore di quanto sono travagliato io. Federico. Eccoci qua. Allora, andiamo al punto. Buongiorno. Non mi faccia anche lei la psicoanalisi, ma mi dica esattamente cosa pensa del dormire coi cani. Non mi permetterei mai. Ma no, ma figuriamoci, uno, poi uno sa noi. Me l'ha fatto tutti i giorni, per cui... Allora, mi dica, vediamo un po' di capire. Allora, io ho una meravigliosa cagnolina di nome Alina. Alina. Che praticamente è la mia badante. La presenti al collega Milan, Alino, Alina, poi sono anche... si piacciono. Sì, non sapevo, quando l'ho trovata non sapevo come chiamarla. Alina, Alina. Fuori Alina. E poi da lì è venuto fuori la mia badante. Ecco, il punto è questo. Lei... Se la mia Alina le dice quando la porta a letto. Praticamente sì. A parte, questi giorni purtroppo sta tirando gli ultimi perché le è venuto un brutto male. Ma sta per schiattare, povera Alina, poverina. Beh, la può sempre sta imbalsamare, la mette sul comò imbalsamata, con la zampettina alzata come se fosse viva. Pensava di impagliarla. Ci mette delle rotelle, la può anche portare a spasso col guinzaglio poi, Alina. Ci mette le rotelle sotto e via. Chi se ne accorge? Esatto. Rimarrà sempre con lei. Questo. Siccome è un cane parecchio intelligente nonostante il padrone. Sta capendo che è finita per lei. Non ho capito. Sta capendo che per lei sono gli ultimi sta per tirare la zampetta, quindi le vuol far vivere bene questi ultimi anche giorni. Anche in queste condizioni per poco, diciamo, piacevoli, lei non ha mai voluto dormire nel letto con me. Oh, una cagna intelligente, alla fine, diciamo, perché devo dormire con un umano? L'antropizzazione che io le porgo, lei dice no, io me ne sto benissimo. Ma sta meglio nella sua cuccia, cioè che gliene importa al cane di avere il lenzuolo che sa di lavanda, la copertina, si gira meglio, cioè infatti è la nostra forzatura, il cane gli fa schifo da un mio letto con una persona, sta meglio nella sua cuccia a succhiarsi il suo osso, a sgranocchiarsi le pulci e a leccarsi le palle, cioè perché deve stare a letto con una persona? 800 24 00 24, a tra poco. Melog. Allora scendi dal letto e fammi fare il letto. Ma come prima ti piaceva, non ti piace più? Dai, vieni. Ma cosa gli fa con l'aspirapolvere al cagnolino questa signora? Prima ti piaceva, adesso non ti piace più. È la frase tipica quando comincia il tramonto di una storia amorosa, di una passione, come prima ti piaceva, adesso non ti piace più. Risponda a qualche sms, visto che l'indagine introspettiva della signora, che dice che è una vita travagliata, si sente che soffro, che sto male, perché dico che avere un canaletto significa sentire la fiatella e l'odore di quello che si mangia, che non sempre è roba gradita e profumata, quindi questo sono malato, e un sacco di gente è su questa linea. Nicoletti, solo chi ha esperienza diretta può sapere quanto empatico sappia essere un cagnolino con il suo capobranco umano, capito? Cagnolino sotto un rapporto sadomaso, capito? È lo slave dell'umano e quindi è servizievole, capito? Vabbè. Dormire con il mio cagnolino è un'esperienza sempre dolcissima e profondamente armoniosa. Ma ha mai provato questo signore o signora a dormire con un essere umano affettuoso, appassionato, divertente, che ti voglia bene o che tu gli piaccia, che ti accarezzi? No, il cagnolino, fate un po'. Nicoletti non sa, non conosce, non può sapere cosa significa avere in camera un cagnolino, una bestiola affettuosa e disinteressata. Poi disinteressato il cane, ma come fa a essere il cane disinteressato? Vive, grazie a Dio, secondo uno schema per cui deve cercare ciò che gli dia sopravvivenza, quindi non può non essere disinteressato. Il disinteresse è una categoria culturale dell'umanità che è disinteressata, che fa una scelta culturale. Il cane non può essere disinteressato, sarebbe un disvalore per lui essere disinteressato, non vivrebbe se fosse disinteressato. Chi non sa non mi parli. Nicoletti è veramente triste, come dice la signora. Bellissimo dormire e vivere con i gatti, se si capisse solo quanto aiuti a vivere meglio. Sì, ma anche vivere con qualche ragazzotta carina, vive meglio ragazzotto, si sta meglio. Ragazzotto significa persona normalmente maggiorenne, consenziente. Ragazzotto può avere 30 anni, 40, anche 50, anche 63. Suggerisco a Nicoletti un tema invece più utile per capire il meccanismo psicologico, per una sua prossima trasmissione. Tema quando non è venuta a conoscenza mi ha turbato, non ho capito bene. Vabbè, andiamo avanti. Chiara, buongiorno. Salve, ciao Nicoletti, sono Chiara. L'ascolto. Allora, a casa non verranno mai cani. Mia figlia mi chiedeva il cane, no, in casa niente cane, è arrivato un cane, per sbaglio. Un cane da quasi 40 kg, logicamente io super arrabbiata, no, il cane sta fuori, il cane ha cominciato a dormire dentro, in entrata, con la cuccia. Guai il cane sopra in appartamento, non verrà mai, insomma Nicoletti, il cane dorme sopra il letto. E insieme non a chi? Dentro il letto, ma eh. Insieme a chi? Non dentro il letto. Insieme a lei, Chiara? Allora, noi abbiamo tante separate con mio marito perché lui russa e logicamente se voglio andare a lavorare, che non sono uno zombie, dormiamo in tante separate. E ci rubiamo il cane, perché? Nel senso che il cane ha letto, io non so chi ha fatto questo studio in America, è vero. Quindi è un ménage à trois con un cane? Praticamente io non accendo neanche più l'allarme a casa. Perché? Mi sento più, perché con il cane in stanza, sopra il letto, ho una sicurezza al 100%. Scusa, un cane da 100 kg, ma è un cane feroce, cattivo, la difesa? No, beh, diciamo che è un cane da caccia, se è territoriale, dunque se si è Scusa, ma Chiara, ma è necessario il cane e la copra durante la notte? Non può stare fuori dalla porta della camera da letto e fare la guardia? Allora, Nicoletti, tutti altri magari di notte perché hai bisogno di andare in bagno e lo vedi. No, mica sono quello lì della reclame del Prostatil che si alza con le scuse no, perché è andato uscendo. No, sì. Non è un malzo mai la notte, altri, dormo. Vedi questo cane messo in posizioni pazzesche, allora già uno magari ha... Ah, ecco, per le posizioni che suo marito non assumeva mai, quindi sceglie il cane per questo. Allora, tu cosa fai? Sorridi, ti passa il pensiero che hai magari del lavoro... ci fa il sorriso sopra, insomma, cosa volete che dica Nicoletti? Signora, io Chiara, la posso capire. No. Suo marito l'ha relegato in un'altra stanza e ha fatto una scelta del cane. Lei trova più conforto, più relax, più interesse, più curiosità averci il cane nel letto. Basta dirlo, fa parte. Io ho dei dubbi, esprimo dei dubbi sullo studio dell'Università dell'Arizona, mi stanno confermando che hanno ragione. Il marito di là che russa da solo, solitario, e si logora nella sua isolamento, nella sua emarginazione, scomunicato in una stanza, e russa, tranquillo, gorgoglia, fa tutti i peggiori rumori, e un cane compito, pian piano, sale sulla signora. Ma le sta proprio sopra durante la notte. Anche da mio marito, è russa anche il cane. Ah, quando va di là russa? Beh, chiaro, ogni tanto, un po' di solidarietà. Anche il cane russa. Vabbè. Dunque, io dico sì, lo studio, chi l'ha fatto, l'ha fatto sì, per me è vero. Va bene, chiaro. Antonio. Stiamo raccogliendo una documentazione che manderemo in Arizona. Antonio, lei con chi dorme? Cani, gatti, animali da cortile? Io ho esattamente 20 gatti. Tutti insieme a letto con lei? Più della metà vengono a letto con me. Vabbè, risparmia in imbottite, coltri, coperte. No, guardi, allora, non voglio essere prolisso nel discorso, però voglio dire alla gente questo. Chi ha un gatto ama comunque il prossimo ancora di più, perché il gatto emana una spiritualità, una delicatezza unica. È supremamente più intelligente del cane, pur avendo avuto anche i cani. Anche il capo della Spectre accarezza sempre un gatto, infatti. No. Il problema fondamentale sta in questo, vede? Se gli uomini avessero la capacità di amare di più gatti, potrebbero ascoltare anche il silenzio delle donne, e in questo incantesimo, naturalmente... Cioè, faccia capire, le donne devono stare zitte. I gatti sono spirituali, c'è poco da dire. Il gatto è spirituale, ogni mossa che fa, ogni movimento trasmette qualcosa. L'importante è viverci e capire cosa ti vogliono dire. Poi mi spieghi tecnicamente, questi 20 gatti, quando è ora di andare a dormire, cosa succede? Come la carica dei 101, vengono tutti in camera? No, assolutamente. Ne arriva uno, poi ne arriva l'altro, incominciano a fare le fusa, una carezza, ognuno la vuole, perché tutti quanti desiderano una carezza da parte mia. È una gangbang di gatti, praticamente. Una certa composizione, chiamiamola così. Però, ripeto, voglio solo... chi non ha avuto animali, chi non ha avuto gatti, chi non ha avuto cani, è molto... Sì, ma lei la sua vita la divide soltanto con i gatti, ogni tanto... Guardi, io ho fatto 25 anni in bagnino di salvataggio, non le dico quante amiche e quante ragazze ho avuto, quindi automaticamente... Ma la salvate e la lasciate sul litorale, la inchiodate sul bagnasciuga, cosa ha fatto? Sono passati 40 anni e ci vediamo ancora, ci ascoltiamo ancora. Certo che io frequento delle donne che amano gli animali, che amano i cani, certo, che amano i gatti. Quindi non c'è una disparità. Beh, neanche certo, chi è allergica al pelo di gatto nel suo letto non ci si può avvicinare. No, non l'ho mai trovato, ho trovato una persona... Sì, adesso, i gatti perdono pelo quando c'ha la muta. Ma bisogna saperli anche pulire, ci vuole la spazzola. Sì, ma va dappertutto. Guarda, io ho frequentato case di persone con i gatti, purtroppo... È importantissimo avere degli animali. Sono scelte. C'è anche una certa capacità di essere ordinato, pulizia. Guardi, io sono maniaco, non faccio entrare nemmeno le persone con le scarpe a casa mia, però ognuno ha le sue scelte, è giusto che lei persegua quello che è il suo piacere. Massimo, eccomi. Oh, finalmente siamo tornati ai cani, sennò con i gatti usciamo dal tema. Lei con chi dorme? Io invece ho trovato un Rottweiler che aveva 4-5 mesi e all'inizio lo tengo, ho deciso di tenerlo. Prima sul copertino, ma niente, voleva per forza salire sul letto. Poi ho preso un materassino e niente, voleva per forza salire sul letto. Alla fine sono 8 anni e me lo trovo sempre sul letto. Lei praticamente ci sta sempre da solo su quel letto, perché oltre al cane non ci può venire nessuno. No, è un letto grande, ci entriamo entrambi, però lui dorme sopra coperte o lenzuola, non dorme dentro, per quanto io abbia provato a coprirlo. Che lei lo voleva dentro lenzuola a questo punto, tanto vale. Ho provato anche a coprirlo, dico fa freddo, copriti, niente, non ne vuole sapere. Però ma il cane ha il pelo, scusi, il cane non avrebbe pelo se bisogno della copertina. Noi abbiamo perso pelo, vero, e abbiamo cominciato a coprirlo. Ma è un vezzo, hai ragione. No, ma è diciamo una vicenda antropologica. No, anche noi eravamo coperti di peli, poi abbiamo cominciato a coprirci e abbiamo perso i peli. Lui ancora, grazie a Dio, cioè, c'ha il suo bel pelo, tranquillo, non c'ha bisogno di copertino. Devo dire tra l'altro che è un Rottweiler che pesa oltre 40 kg. Però è anche bello pesante. Sì, è, Ma che vuol dire dolcissima? Che vuol dire dolcissimo? Mi spiego, per tutti è tanto dolce. Che vuol dire dolce un cane? È dolce perché ormai col padrone fa quello sguardo languido quando vuole mangiare, quando vuole Lo sguardo da cane quando c'ha fame. Sì, cioè. lo sguardo da cane, ma lo sguardo dolce, attenzione, non è che... Sì. Almeno noi lo vediamo così. Io poi rispetto pienamente, io devo dire una cosa... Ma mica dico che bisogna cavargli gli occhi, ma un cane quando c'ha fame ti guarda con gli occhioni, gli dai la pappa e tutto contento. Nicoletti, devo dire che in famiglia non sanno che il mio cane dorme sul mio letto. Per loro sarebbe una cosa orribile. Cioè, in famiglia, lei ha una moglie, una compagna, una fidanzata? Io ho un compagno. E il suo compagno è d'accordo di dividere il letto? No, condividiamo insieme. Quindi siete una coppia aperta, nel senso il cane non dà... Che vuol dire? Lei ha trovato una persona con i suoi stessi gusti, è fortunato. E metta che al suo compagno gli faceva un po' senso. Senti, sto cane c'è una fiatella che non gli sta vicino, capita. No, non succede. Non la fiatella. Ma il cane ce l'ha la fiatella. Non mi dica un cane senza fiatella, non è un cane. Si è abituato. L'ascoltatore di prima ha ragione. Ci vuole anche pulizia, ci vuole igiene. Sì, ma il cane, il cane lecca il sedere agli altri cani. Non è che questo lo può impedire. Lecca il suo. Non posso impedire che cammini per aria, cammina per terra. Capito. Se vede una bella cacata per terra, se la mangia il cane. Ormai, io allora all'inizio non avrei mai pensato a questa situazione. Però poi quando ti ci trovi dentro e la vivi in prima persona, tutto il resto è secondario, quindi il cane che va nel prato oppure che cammina per terra e poi ti sale sul letto. Massimo, io non voglio cambiare. Se lei e il suo compagno siete contenti così, viva la faccia, sto bene. Esprimo le mie perplessità sul fatto che questa sia una deriva che poi... Io penso che gli esseri umani dovrebbero, per quanto possibile, cercare, e già questo è uno sforzo, me rendo conto, di trovare motivi di verosimiglianza tra... Già è difficile avere rapporti empatici con esseri umani, perché ci sono tanti problemi. Riversarsi sugli animali, perché è più facile, l'animale alla fine non ti dice niente, basta gli dai da mangiare, gli dai due coccole, è tranquillo, non è che nella sua testa si fa tutte le seghe mentali, si fanno gli esseri umani, quindi tutto sommato è più rassicurante. Può essere che vada bene, può essere che un domani andremo tranquillamente a spasso con i nostri animali, ce li porteremo al lavoro, faremo i matrimoni fra uomo e animale, perché no? A questo punto, scusi, perché non si può sposare un cane? Mi spieghi perché? Se lei volesse lasciare la sua pensione, la sua casa a un cane, dovrebbe poter sposare un cane a questo punto. Non vedo per qual è il tabù, visto che non essere senziente. Ci facciamo tutte le cose che ci legano intimamente a un altro essere umano. La gente si sposa per avere lecito diritto di dormire assieme. Se lei dorme con un cane, potrebbe anche decidere un domani, dice, voglio lasciare tutto a questo mio cane. 800 24 00 24, stiamo andando molto oltre. A tra poco. Melog. Ha già dormito un po' di mano? Sa stare da fornire. Mi dite questa storia, capito o no? Sei il mio cazzo di letto. Basta, già faccio più. Ogni sera la stessa storia. Basta. Vaffanculo, guarda sul divano. Guardate, vediamo un quadro esaustivo del problema, mentre ci sono persone entusiaste che non si capacitano come io, non riesco a convincermi quanto sia tenero, bello avere un cane accanto la notte, come le persone che hanno chiamato, ci sono altre che mettono su YouTube la loro disperata reazione al fatto che gli animali usurpino il loro letto. Guardate anche questo, fai scendere dal letto, il cane abbaia, non vuole scendere, ha conquistato quel territorio e ci sta bene. Dobbiamo cominciare a dividerci gli spazi del sonno, della passione, del relax, della ricerca dell'introspezione o della ricerca della penetrazione con gli animali. Michele, buongiorno. Buongiorno. Io sono di Bari, vivo a Milano da qualche tempo e ho sempre avuto insieme a mia moglie dei gatti. Prima due, adesso altri due. Quattro gatti avete? No, ne avevamo due che sono deceduti e adesso ne abbiamo presi altri due. Un gatto a testa. E un gatto a testa, esatto. E condividiamo il letto con loro. Sì. Condividiamo la casa con ecco, loro. Mi descrive la geometria, come siete collocati nel letto. Cioè, lei sta alla sponda sinistra, immagino. La moglie, lei la sponda destra. La sponda destra. La moglie a sinistra e il gatto dove sta? I gatti a secondo, stanno a piedi del letto, alle volte vengono pure su in mezzo tra noi. Si frappongono al vostro intimo connubio coniugale. Connubio coniugale. Ma potete farlo con i gatti nel letto, i gatti si infastidiscono. Sì, perché poi poi loro comunque non è che rimangono, essendo giustamente degli animali, dopo un po' si scocciano. Beh, hanno anche un certo pudore quando vedono lì che anzimate presi dalla foglia animalesca se ne vanno. Certo, ma anche quando non succede nulla, dopo un po' si allontanano, perché non è che rimangono sempre a letto. E allora che vengono a fare se stanno lì 10 minuti e se ne vanno? Ma i minuti non li ho mai contati, però sicuramente vengono per stare vicino a dei punti di riferimento che siamo diventati noi per loro, immagino. Non avendo questo vi fa dormire meglio, sapere? Quindi salgono e scendono durante la notte? Sì, assolutamente. E devo dire che quando non ci sono mi mancano. Ora, darmi una spiegazione non me la so dare. Le pongo un quesito impossibile. Le mancherebbe più la moglie e due gatti nel letto? No, mi manca sicuramente più mia moglie, senza ombra di dubbio. Vabbè, ancora su una strada senza di recupero di accettabile. Sì. Poi un domani la moglie se ne andasse, rimarrebbero sempre i gatti. Ma quello ne abbiamo pure discusso. Se dovesse capitare, ma ormai non capita più, abbiamo 53 anni, tutti e due siamo sposati da più di 30. Quindi... Vabbè, la gente si lascia anche a 90 anni. Ah, sì, quello sì, certo. Abbiamo deciso che ci ridividiamo. Uno per uno. E già avete scelto qual è il suo, qual è quello di sua moglie? No, quello non è stato ancora deciso. Ma separate i poveri gatti, sai che sofferenza. Lo so, vabbè, li faremo incontrare ogni tanto da qualche parte. Vabbè. Ma quando apri cena ce li porteremo lì. Gli avvocati matrimonialisti dovranno cominciare a contemplare anche questa fattispecie, ma già ci aveva detto l'avvocato Cassani, la divisione dell'animale diventa molto più difficile, molto più che il problema di assegnazione dei doveri verso i figli. Piera, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Dimmi. Lei ha chiamato, deve esprimermi la sua esperienza con gli animali. La mia esperienza con gli animali è un'ottima esperienza, io ho 3 cani, 2 gatti, vivono a casa con me, una casa abbastanza grande con uno spazio fuori, quindi loro sono liberi di entrare. Ma non se li porta a letto lei? Sì, se vogliono venire dormono pure sul letto, non sempre, perché come diceva prima il signore, nei momenti di intimità loro lasciano i gatti, noi invece no, abbiamo l'abitudine, se il mio fidanzato dorme da me, che dormono fuori della camera. Il fidanzato pretende un minimo di privacy, che non ci siano i cani sul letto, almeno questo. E pretende anche di dormire, mentre lei capisce che se fossimo in 5 in un letto non si dormerebbe neppure. Però quando sono sola, 2 dei cani sono liberi di dormire. Ecco, ma il suo fidanzato sa che il succedaneo della sua compagnia sono i cani quando lui se ne va? No, sono il succedaneo, scusi. Lei... secondo me non è abituato a vivere con gli animali. No, a dormire no. Come... No, guardi, io sono andato in campagna, fino all'età di 20 anni vivevo, c'avevo le vacche sotto la casa nella stalla, quindi figuriamoci, non sono abituato a vivere con gli animali. Sì, però... Però non si portavano a letto. Il cane è un animale da compagnia, secondo me lo possono... Sì, ma c'erano i cani, legati al pagliaio, era pieno di cani, mi ricordo. I cani da pagliaio si chiamavano. Quello molti anni prima. Stalla, certo. Una situazione diversa del rapporto con gli animali, comunque. Oggi noi abbiamo questi animali in casa e li trattiamo come membri della famiglia, questo sicuramente. Ma proprio perché sono membri della famiglia, non è che uno tratta peggio un cugino dell'altro. Signora, guardi, io sono abituato che i membri della famiglia avevano 2 gambe e camminavano in piedi, però evidentemente abbiamo una diversa collocazione della terminologia di membro, e quindi oggi il membro ha 4 zampe. Ci sentiamo alla prossima.